quale edizione siamo arrivati? Direi 14, sai. Bene. Che col fatto che abbiamo deciso di non numerarle e di andare ad anno solare, non me lo ricordo più, però è cominciato nel 2006, quindi facciamo i conti, facciamo fare i conti ai radioascoltatori. Hai fatto un rapido conto, si diceva vietato ai minori di 14 anni, no, una volta, invece questa volta sarà decisamente anche obbligato, tra virgolette. Esatto. Beh, è vero che non avevo immaginato che può essere questo traguardo. Beh, di giovanissimi qualcuno ce n'è, però diciamo che di solito sono proprio gli allievi del liceo musicale, si va da lì in su sostanzialmente. Allora, da dove partiamo, Francesco? Dal programma, dai. Non lo vado a spiegare nel suo complesso, perché stiamo parlando di un'infinità di concerti, perché come nelle passate edizioni il festival è un network di tantissimi partner. L'associazione, diciamo, capofila di questa di questo network è l'associazione Bologna in Musica, che organizza le 5 produzioni dirette nei principali teatri della città, ma e tutto, diciamo, l'apparato di progetto didattico, welfare, bandi della regione, bandi europei e via dicendo. Però il complessivo del programma è proprio un coordinamento con tanti soggetti differenti che operano sul territorio, taluni dei quali anche con continuità durante tutto l'anno, per cui che so, la cantina Ventivoglio, il Bravo Caffè, il Torrione Jet Club di Ferrara, nuovo locale Camera, Jazz and Music Club di Bologna, eccetera eccetera eccetera, perché poi si va in città metropolitana, poi si va a Forlì, poi si va a Modena, la già citata Ferrara, insomma è articolatissimo. Però direi che i 5 concerti principali in abbonamento sono, diciamo, il cuore, il centro di questa lunga e articolata rassegna, e sono e la incorniciano, tra l'altro. Quindi si comincia il 25 di ottobre e si conclude con il 26 di novembre, e proprio incorniciano la rassegna due concerti, diciamo, più jazzistici in questo caso, cioè il piano trio di Fred Hirsch al Unipol Auditorium e il trio di Pat Metheny in versione più jazzistica, che non, diciamo, Fusion, Metheny Group, o chiamiamolo come vogliamo, il 26 di novembre all'Europa Auditorium. E in mezzo si va un po' a spasso per il mondo. La cultura afroamericana, cultura musicale afroamericana in tutte le sue derivazioni, con Diana Reeves il 31 di ottobre al Teatro Duse, la matrice, diciamo, indiana del trio Potter, Holland, Hussein, Cross Currents Trio, l'8 di novembre al Unipol Auditorium, e sempre all'Unipol Auditorium il jazz samba di questo stregone albino 83enne, direi, che è Ermeto Pascal, e quindi, diciamo, il Brasile nel senso più ampio del termine. Sì, questi, certo, sono i 5 appuntamenti fondamentali. È anche difficile dare un filo conduttore, ecco, perché saranno diversi. Sì, diciamo che contrariamente all'anno scorso, dove si è fatto un palinsesto molto tematico sugli arrangiatori e larghi organici, quest'anno le scelte sono ricadute più che altro sull'intercettare questi nomi nel periodo del festival, a partire da Metheny, che sia con impegno economico che come nome di punta è stato, diciamo, il primo ad essere chiuso come concerto, e dopo a cascata tutti gli altri, cercando, diciamo, più che altro di dare diversità e proposte molto difformi per rappresentare un po' quello che è la qualità del jazz, non solo con questi 5 concerti, ma con tutto il palinsesto. Comunque, Francesco, un elemento di continuità, poi sempre i grandi improvvisatori, leggo Bobby Watson, leggo Chris Potter, insomma, la crema. Beh, sì, la qualità dipende anche tanto dalle scelte dei partner stessi, perché lasciamo, diciamo, il nostro ruolo prevalentemente di coordinamento, e ogni locale o teatro che si inserisce in questo network ha delle sue peculiarità dal punto di vista della direzione artistica, per cui noi non andiamo a interferire a gamba tesa, diciamo, con quelle che sono le scelte di una cantina Ventivoglio o di un Bravo Caffè, per esempio, che hanno tagli molto diversi, citando questi, diciamo, due soggetti. E proprio questa diversità di diciamo linee e di pubblici poi garantiscono basandoci su un criterio, diciamo, di livello qualitativo alto, complessivo, ci aiutano proprio a creare questa diversificazione, questo ampio spettro di quelli che sono tutti i linguaggi che, diciamo, convergono in questa onomatopea che si chiama jazz. Allora, Francesco, oltre ai diversi concerti e ai diversi luoghi in cui si terranno i concerti, ci sono anche altre attività, per esempio il progetto didattico Massimo Mutti, il premio Massimo Mutti, la masterclass con il pianista Barry Harris, insomma delle attività collaterali, diciamo. Certo, sia, diciamo, quest'anno tra l'altro è sempre di più nell'ambito del Bolognese Festival si lavora sulla formazione e anche sul sociale. Il progetto didattico di quest'anno, che è sostenuto dalla Fondazione del Monte, va a completare quello dell'anno precedente. Cioè l'anno scorso erano state, diciamo, finanziate le attività di Segno Sonico e della Tower Jazz Composer Orchestra, e quest'anno il progetto didattico aiuta queste due realtà ad uscire con un prodotto discografico, cioè a fissare tutto l'aspetto laboratoriale svolto nel contesto del 2018 sul supporto. Segno Sonico ha già fuori il libro più vinile, perché era un'esperienza legata all'incrocio tra l'improvvisazione del gesto, del disegno, con quella della musica, e quindi c'è un autentico catalogo, diciamo, delle opere dei ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna e del Liceo Artistico di Bologna, e nel vinile c'è il lavoro fatto in studio da Pasquale Mirra insieme agli allievi del Liceo Musicale Lucio Dalla e del Dipartimento Jazz del Conservatorio. Invece il disco della Tower Jazz Composer Orchestra è stato realizzato al Teatro De Micheli di Copparo, già mixato, e dovrebbe uscire, adesso è andato in stampa credo proprio ieri, e dovrebbe uscire tra fine mese e primi di novembre. Questo è, diciamo, il collegamento con l'attività dello scorso anno. Poi ovviamente c'è tutta una serie di attività collegate invece, cioè che innovano il progetto didattico, e sono per esempio il sostegno a una nuova orchestra che si chiama Emilia Romagna Jazz Orchestra, fondata proprio quest'anno e che si esibirà contestualmente alla serata dove poi verrà rilasciato il premio Massimo Mutti al Teatro Antoniano il 30 di ottobre, in compagnia di Dina De Rose. Anzi guidata da Dina De Rose, che ha portato anche gli arrangiamenti per Big Band per un suo progetto di omaggio a Shidi Horn, e l'orchestra vede alcuni musicisti professionisti, alcuni giovani musicisti radunati da Piero Dorici come direttore, diciamo, artistico dell'orchestra, e Roberto Rossi come invece direttore conductor della stessa. Sempre in occasione di quella serata si esibirà la Junior Big Band di Vignola, sono tutti giovanissimi ed è sempre un largo organico piuttosto classico come formazione, guidato in questo caso da Cristiano Arcelli, che ha seguito e segue questo progetto, e quindi vedremo appunto due generazioni a confronto fortemente legate al territorio emiliano in due contesti, cioè nel contesto della media di una serata. Poi c'è un'altra cosa molto importante da citare relativa al progetto didattico, che è un convegno giornalistico aperto anche agli studenti del Conservatorio del Liceo Musicale, il convegno che si terrà nella terza torre della regione sul tema scrivere la musica coinvolgerà prestigiose penne del giornalismo musicale, sia quello radiofonico, vedi Pino Saulo di Battiti e di Radio Trasuite, poi Giordano Montetti, Stefano Zenni, Carlo Massarini e Marco Molendini. Quindi diciamo tutti prestigiosissimi giornalisti, in questo modo diciamo si dà anche una prospettiva di critica musicale, non solo diciamo di esecuzione, ai giovani allievi sia del liceo che del dipartimento jazz e comunque a tutti gli studenti tra l'altro interessati a partecipare a questo convegno che si terrà il 15 novembre in mattinata, come ho già detto, nella terza torre della Regione Emilia Romagna. Poi c'è anche un progetto sul sociale che incrocia in parte il progetto didattico, perché il concerto che vi dicevo del 30 ottobre all'Antoniano è un concerto che viene fatto all'interno di una struttura che si occupa anche dell'accoglienza dei senza fissa dimora ed è ad offerta libera e l'intero ricavato verrà destinato alla struttura stessa. Idem dicasi per ciò che avverrà il 25 di novembre alle cucine popolari di Bologna con la medesima forma, cioè concerto offerta libera con l'intero ricavato devoluto alla struttura, e in questo caso c'è il duo di Flavio Voltro e Stefano Segni, Flavio che sarà già dal giorno prima a Bologna e quindi un altro incrocio per presiedere la presentazione di un libro, una graphic novel realizzata da un nostro socio, Vanni Masala, è dedicato a Michel Petrucciani, con cui Flavio ha lavorato lungamente nell'ultima parte della carriera del grande pianista francese. Bene, intersezioni con altri cartelloni, sappiamo del Torrione, continua questo binomio, ci saranno altri approcci? In che termini? Nei termini di intersezioni di altri festival, di altre città, di altre piazze. Ah sì, sì, come no, assolutamente. Beh, per la prima volta Forlì, dove si esibirà Fabrizio Bosso e Giovanni Guidi con il loro quintetto, diciamo, americano, e Modena con il già citato concerto di Bobby Watson in duo con Andrea Pozza, e poi sono talmente tanti, cerco di andare il Cineteatro Fanin, i club che ho già citato, Catina Ventivoglio, Bravo Caffè, il Camera che si inaugura tra l'altro questo mese, il 17 di ottobre, e speriamo che sia un altro luogo, diciamo, dove vivere la musica a Bologna, che è un continuità. Sempre su Bologna il Mercato Sonato, il Binario 69, una puntata anche al Locomotive Club, e altra novità di quest'anno, i pre e i post dei concerti principali in abbonamento, si faranno delle, si organizzano dei concerti sia, diciamo, all'aperitivo che precede i concerti in teatro presso Zusci in via Pietramellara e in coda ai concerti principali del palinsesto ci sarà da fruire del secondo set e della jam session a seguire proprio nel nuovo locale Camera Jazz and Music Club. Bene, Camera Jazz Music Club sarà protagonista tra pochissimo, così mettiamo insieme anche un partecipante a questa rassegna con Piero Dorici verso le 12:05 dopo il primo stacco pubblicitario. Abbiamo qualcos'altro da aggiungere? Sì, possiamo aggiungere il segno, il grafico, Altan. Ah, certo, assolutamente. Tutti gli anni in collaborazione con Billboard Bull si designa un artista a fare l'immagine coordinata del festival, significa dal merchandising con le t-shirt a le immagini su libretti, flyer, vele, pinato e metta, e soprattutto all'interno dell'autobus del jazz, che anche quest'anno si realizza con il contributo di R.T. Per dove, all'interno del quale ci sono appunto le opere di Altan, quindi una specie di mostra itinerante con sottofondo gestistico per le strade di Bologna, e hanno appena affisso nelle bacheche storiche della città, grazie alla collaborazione con Chip Festival, tutte le locandine, diciamo, i manifesti del Bologna del Festival di questa edizione, che sono tutti a firma questo straordinario artista, disegnatore, che molti conoscono perché è il disegnatore satirico di Repubblica, e perché è quello dell'ombrello, insomma. Esatto, è quello dell'ombrello o addirittura dei fumetti del Corrierino dei Piccoli, che qualcuno avrà letto, diciamo di quelli della mia generazione in su, e Linus, credo anche, che è la mitica per i bambini Pimpa, cioè il cagnolino a pois bianco e rosso. Bene, potete seguire il programma attraverso il sito www.radiocittafugico.it, dove Alfredo vi terrà aggiornati settimanalmente, anzi quotidianamente, su tutto quello che succede e anche sulle piattaforme legate al Bologna Jazz Festival. Inizio ufficiale, poi ti salutiamo, Francesco. Inizio ufficiale, quindi, con... Inizio, perché la linea è disturbata. Inizio ufficiale il 25 ottobre con il trio di Fred Hersch all'Unipolar Auditorium.